Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Tasse! Tasse! Bellissime, adorabili tasse! Oggi ci ha accolto l'indimenticabile Re Giovanni, il protagonista del film Robin Hood di Walt Disney, che mi aiuta a sdrammatizzare il tema delle tasse, appunto, che da domenica scorsa, con la manovra approvata dal governo, è tornata di grande, grandissima attualità. E allora in questa occasione voglio segnalare il libro che approfondisce appunto questo aspetto, un libro di Luca Ricolfi che si intitola La Repubblica delle Tasse, perché l'Italia non cresce più. È pubblicato da Rizzoli, 212 pagine, 18 euro. Per uscire dalla stagnazione, dice Luca Ricolfi, dobbiamo ridurre di almeno 15 punti le aliquote sui produttori, le tasse su chi produce. E in questo suo libro Ricolfi riorganizza gli articoli pubblicati sulla stampa e su Panorama, con alcune sottolineature che hanno fatto anche molto discutere. Questi articoli sono appunto tutti centrati su questo aspetto, sul carico fiscale, soprattutto quello che grava sui produttori. E dicevo, ci sono anche alcuni elementi che hanno fatto molto discutere, per esempio la sottolineatura che fa Ricolfi sull'ampiezza dell'evasione fiscale nel sud. Ma su questo sentiamo l'autore. Buongiorno a Luca Ricolfi. Buongiorno. Luca Ricolfi, allora, lei ha scritto questo libro sulla Repubblica delle Tasse e nel frattempo il governo ha aumentato le tasse, quindi una contraddizione fra la politica e quello che lei analizza, quello che lei invita a fare, tagliare le tasse sui produttori? Ma fino a un certo punto, perché il mero fatto che siano state aumentate le tasse è un misura comprensibile. Io non penso che in questa situazione si potrebbe fare una riduzione secca complessiva delle entrate, visto che abbiamo un aggiustamento abbastanza pesante da fare. Il mio parametro sono le tasse sui produttori. Si può pensare in un pacchetto come importante come quello che è stato varato, si può pensare di aumentare anche sensibilmente le tasse in certi ambiti, ad esempio le famiglie o i patrimoni, eccetera, ma ridurre drasticamente la pressione fiscale e contributiva sui produttori. Per me il parametro è questo. L'altra misura che si poteva immaginare, una vecchia idea di Montezemolo, cioè quello di azzerare gli incentivi alle imprese, che viaggiano sui 15 miliardi all'anno come ordine di grandezza, e mettere tutta questa somma a riduzione dell'IRAP, dell'IRES, o di entrambe le imposte che gravano di più sui produttori. Quindi per me il problema è solo quanto è stata alleggerita la pressione fiscale sui produttori. Di per sé un aumento delle tasse va bene, purché la pressione fiscale su chi produce si riduca. Questa è la mia idea. Ed è questo il messaggio forte che viene fuori dal suo libro. Ecco, perché in Italia, a suo parere, si è creato questo sistema per cui abbiamo un sistema così fortemente penalizzante che non ha paragoni in Europa, anche rispetto a paesi che hanno un carico fiscale molto alto, come i paesi scandinavi, che penalizza così fortemente i produttori? Ma io penso che questo si sia prodotto per una ragione abbastanza semplice, cioè che destra e sinistra divergono in parecchie cose, però su un punto almeno sono perfettamente d'accordo, e cioè che la priorità, se c'è una riduzione della pressione fiscale, sono le famiglie. Se la sinistra e la destra hanno sempre pensato in termini di voti, di consenso, allora se tu vuoi avere del consenso, che cosa fai, o meglio che cosa prometti? Prometti che la gente paghi meno tasse, non prometti che le imprese e i produttori paghino meno tasse. Prometti una misura di tipo universalistico, come può essere la riduzione dell'IRPEF, oppure quella che è stata più demagogica, che l'abolizione dell'ICI sulla prima casa. Una misura che accomuna destra e sinistra, che poi la sinistra l'abbia fatta in una chiave più egualitaria, distinguendo fasce di contribuenti, certo fa una certa differenza, però l'idea è sempre la stessa, cioè la gente non vuole pagare le tasse, non vuole pagare le tasse sulla prima casa, non vuole pagare l'IRPEF, se noi gli promettiamo quello. Il nostro ceto politico non si preoccupa della crescita, si preoccupa della crescita dei voti, non della crescita del paese. Ecco, e a proposito di non pagare le tasse, una delle tesi che ha suscitato più scalpore quando queste sue idee erano state espresse sui giornali, sulla stampa e sul Panorama, è stata la sottolineatura sull'ampiezza dell'evasione fiscale nel sud, che a suo parere spiega anche come mai si riduca il divario fra PIL nel nord e nel sud, non perché il sud produca di più, ma perché il nord produce di meno, in quanto appunto oberato da un carico fiscale che il sud da molti anni ha deciso di non onorare. Sì, questa è una cosa che ha stupito anche me, perché noi siamo abituati, io stesso fino a un anno fa, quando ho fatto questa scoperta abbastanza banale, ma comunque una scoperta, fino a quando non mi sono accorto che il sud correva più del nord, anch'io pensavo che fosse l'inverso, cioè che nonostante tutto il nord, essendo più efficiente, eccetera, riuscisse a avere una crescita del PIL superiore. Invece poi andando a vedere i dati, ahimè, mi sono accorto che il PIL pro capite cresce più in fretta al sud che al nord. E ho fatto qualche controllo econometrico e l'unica spiegazione che sono riuscito a trovare compatibile con i dati, che sono dati a livello provinciale, cioè noi abbiamo il tasso di crescita del PIL per tutte le province, l'unica spiegazione che ho trovato è il differenziale di evasione fiscale, cioè l'evasione fiscale è molto più alta nel sud e questo in termini concreti significa un'autoriduzione delle tasse, di qui una maggiore crescita nonostante tutti gli handicap di cui il sud è oberato, perché la cosa divertente è che quando si fa il confronto nord-sud si dice il povero sud non può crescere perché la giustizia civile non funziona, c'è la mafia, il costo del denaro è altissimo, cioè si elencano le infrastrutture, non ci sono, tutti gli handicap del mezzogiorno. Ebbene, nonostante tutti questi handicap che dovrebbero farlo crescere di meno, il sud cresce di più. Allora questo mi porta a pensare che il fattore fiscale sia molto importante e in effetti controlli econometrici che ho fatto confermano che è l'unica determinante importante della crescita a livello provinciale è l'evasione fiscale, oltre che naturalmente il valore iniziale del PIL pro capite, nel senso che a parità di altre condizioni una provincia che ha un PIL più basso cresce di più di una che ha un PIL pro capite più alto. Però oltre a questo fattore che è ovvio, il fattore evasione fiscale ha un grande incidente, ancora maggiore di questo fattore ovvio delle condizioni iniziali. E allora lei insiste sul fatto che anche la sinistra dovrebbe essere più convinta della soluzione federalista. Ma la sinistra non è che dovrebbe essere più convinta, dovrebbe essere convinta. La sinistra non è mai stata convinta della soluzione federalista, perché il tipo di federalismo che la sinistra ha sempre avuto in mente è un federalismo altamente solidaristico e noi abbiamo invece un problema opposto in Italia, cioè che c'è un eccesso di solidarietà interregionale, per cui il nord stacca un assegno di 50 miliardi all'anno al resto del paese e c'è invece un deficit di responsabilità. Ora, l'idea sana del federalismo era di introdurre degli elementi di responsabilità nelle decisioni di allocazione delle risorse. La sinistra ha sempre tirato nella direzione opposta, cioè di togliere elementi di responsabilità e di sostituirli con elementi di solidarietà. E bisogna dire che se le cose sono andate poi male, perché il federalismo che sta nascendo adesso fa ridere, bisogna anche ringraziare la Lega, che non ha mai creduto veramente al federalismo. Cioè la Lega ha accettato quasi tutte le condizioni la sinistra ha posto per inibire la nascita di un vero federalismo, pensando che l'importante era che la legge passasse e di poter presentarsi davanti ai propri elettori con lo scalpo del federalismo da esibire in campagna elettorale. Questa scelta ha portato sia ad accettare, a digerire tutto e a permettere la nascita di un federalismo che non risolverà nessuno dei problemi per cui è stato pensato. Problemi tra i quali quello della pressione fiscale che pesa sui produttori era il problema principale, cioè secondo me la vera ragione per cui aveva senso il federalismo era di riconsentire di nuovo a chi produce ricchezza di farlo. Se il federalismo non assolve anche questa funzione, possiamo essere ancora federalisti, nel senso che un po' di ordine nei conti pubblici non fa mai male. Io penso che il federalismo produrrà più trasparenza, cioè io non lo boccio completamente, però dico con stato amaramente che la ragione per cui è nato non vige più. Quindi delusione sul fronte federalista e delusione, come lei scrive, sul fronte del Partito Liberale di massa, che è ancora lontano. Direi che non lo vedremo mai. Speriamo di no. Molto pessimista su questo. Speriamo di no. Grazie a Luca Ricolfi, autore de La Repubblica delle Tasse. Buona domenica. Grazie a voi. E ridurre la pressione sui produttori di ricchezza è il titolo del paragrafo iniziale del primo saggio di una raccolta anch'essa di grande attualità, una raccolta curata da Tommaso Nannicini, Non ci resta che crescere, riforme, chi vince, chi perde, come farle, pubblicato da Bocconi, 198 pagine, 16 euro. Come vedete la ricetta è la stessa, ridurre le tasse sui produttori, rafforzata in questo libro che contiene una serie di saggi di economisti e giornalisti sul futuro dell'economia italiana, saggi raccolti in quattro capitoli che trattano il tema del funzionamento dei mercati, della formazione del capitale umano, della concorrenza del mondo delle professioni e dell'energia e delle infrastrutture. Il curatore spiega nell'introduzione al libro che l'Italia ha bisogno di riforme per modernizzarsi o per completare le modernizzazioni che pure sono state avviate negli anni passati nel sistema economico, produttivo e finanziario. Se non lo farà, se non compie queste riforme, dice Nannicini, ci aspetta un periodo di dolce declino per opporci al quale dobbiamo selezionare le risorse economiche e sociali, aprire molti mercati e professioni oggi protette alla concorrenza affinché le risorse disponibili vadano laddove sono più produttive. Dobbiamo selezionare, continua l'autore, le politiche pubbliche. Insomma, l'Italia, conclude, ha bisogno di una grande opera di potatura. Dobbiamo potare qualche ramo della pianta per far sì che possa produrre più frutti. E qui di questi possibili tagli e dei risultati positivi che ne potrebbero derivare troviamo un lungo ed esaustivo elenco. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Inizia un periodo di pericolosi cedimenti alimentari. Allora, per non resistere alle tentazioni e anche per darvi qualche idea per qualche regalo, vi segnalo dei titoli legati a questo tema. Non segnalo delle guide, ma innanzitutto una sorta di breviario a un'Italia rara e preziosa che esprime la civiltà del nostro paese, della nostra cultura e non soltanto di quella materiale. Il primo libro è quello di Camillo Langone, Bengodi, Piaceri dell'autarchia. Autarchia, pubblicato da Marsilio, 236 pagine, 16 euro. Autarchia significa prodotti rigorosamente nazionali, nel solco di una storia che non ha paragoni. Langone non vuole usare la parola tradizione perché scrive, sa, di rancido e finito. E quindi questa che ci propone è una guida, uno stile di vita, non solo di mangiare e bere, e per questo usava appunto la parola cultura. Autarchia per Langone significa autosufficienza, indipendenza innanzitutto culturale. E quindi nel libro di Langone troviamo una serie di alcuni prodotti con un riflettore acceso su sette che lo stesso autore considera delle categorie pestilenziali. Intitola infatti La peste i paragrafi nei quali ne parla: il panino, formaggio e prosciutto, il biologico, gli schermi nei locali, il bed and breakfast, la musica di sottofondo, la birra e lattina, le bollicine, il kebab, la pizza a domicilio, insomma, e tanti altri. Quindi una guida a mangiare bene, ma soprattutto a capire la cultura italiana. E a proposito di cuochi, vi segnalo un libro su un grande cuoco del Rinascimento, Martino da Como, protagonista della biografia romanzata di Maria Cristina Magni, Il principe dei cuochi, Mondadori, 240 pagine, 14 euro. Il personaggio è storico, ma di lui sappiamo poco, se non alcuni elementi dai quali l'autrice ha tratto spunto per ambientare il romanzo in uno dei periodi più scintillanti e presso due tra le corti più sontuose dell'Italia rinascimentale, cioè quella degli Sforza a Milano e poi quella di un grande cardinale a Roma. Proprio a Roma, Martino da Como sarebbe diventato uno dei grandi cuochi del suo tempo, se non forse il maggiore, e delle sue gesta si sarebbe occupato anche il Platina, un grande intellettuale del Rinascimento. Sentite qualche indicazione, per esempio, su una ricetta tipica della cucina milanese che viene così illustrata in termini letterari nel libro di Maria Cristina Magni. Il cuoco di corte esprimeva ingegno nel presentare i piatti, in giusto equilibrio tra esaltazione del gusto e sfarzo. Come un bravo artista, con poche pennellate era capace di creare una suggestione forte e intensa. Adorava il sapore dello zafferano e lo metteva ovunque, nelle carni, nelle minestre, sulla verdura e nei dolci. La spezia dal giallo intenso color dell'oro a Milano veniva ampiamente utilizzata dai pittori per colorare, e oltre a rendere i cibi più stuzzicanti, si riteneva avesse proprietà digestive e il potere di equilibrare lo spirito. Per aumentare la sensazione visiva, si usava ricoprire il riso allo zafferano cotto nel brodo di cappone con polvere o foglie d'oro puro. E nel libro troverete anche qualche ricetta ispirata alla cucina di Martino da Como. Invece un grande chef di oggi è Moreno Cedroni, che opera nelle Marche ed è autore di Maionese di fragole, pubblicato da Mondadori, 184 pagine, 17,50 euro. Tante ricette, ma non solo, qui piuttosto di nuovo si tratta di illustrare una filosofia, quella di difendere, come scrive Moreno Cedroni, ricordi ed esperienze personali, curiosità e suggerimenti pratici fuori dagli schemi, cercando in particolare di coinvolgere i bambini per trasmettere anche a loro, scrive lo chef, uno scrigno di cibi, profumi e consistenze preziose. E nel libro troviamo delle indicazioni su come fare la spesa, su come scegliere i prodotti, su come imparare a cucinare, su come lavorare, su come divertirsi a cucinare. E nelle righe che adesso vi propongo vediamo come l'attaccamento alla tradizione, alla storia della cucina anche popolare possa diventare appunto ispirazione per grandi ricette. Qualcuno potrebbe pensare che nei ristoranti stellati ci sia un gran dispendio di cibo e che il retro delle cucine sia ingombro di cassonetti pieni di ogni ben di Dio. Niente di più lontano dalla realtà. Matilde lo sa. Sono un acerrimo nemico degli sprechi. È un imprinting che ho ricevuto da bambino e che ho coltivato negli anni. Da piccolo ho apprezzato l'indispensabile. Quello che non mangiavi a pranzo lo finivi a cena. E il pane che avanzava lo ritrovavi la mattina per la prima colazione. Che bei tempi. Può sembrare un paradosso e so bene che indietro non sarebbe nemmeno giusto tornare. Ma quella necessaria frugalità mi ha insegnato molte cose. Mi ha regalato sensazioni fortissime che porto sempre con me. Il sapore del pane vecchio inzuppato nel caffè latte la mattina, per esempio. Lo mangiavo velocemente, perché bastava aspettare 5 minuti di troppo e non era più lo stesso. Il suo volume raddoppiava, alterandone la consistenza. Il suo ricordo mi ha ispirato alla ricetta di un dolce che dimostra ai bambini la bontà degli avanzi, se usati nel modo giusto. Il tiramisù con il pane del giorno prima. Una bontà che Matilde e le sue amiche apprezzano moltissimo. Dal cibo passiamo al bere con una bella strenna di John Variano, che è uno studioso USA esperto del Rinascimento italiano, che si intitola semplicemente Vino tra storia e cultura, pubblicato da Odoia, 314 pagine, 20 euro. La storia del vino è veramente affascinante, come scrive nella sua prefazione al libro Massimo Montanari. Il vino è sempre stato molto più di una semplice bevanda e piuttosto è stato un simbolo di cultura. Con tante illustrazioni qui troviamo la storia, lo sviluppo del vino dall'antica Grecia fino a oggi, con interessanti escursioni anche nel campo della letteratura, dalla Bibbia fino a oggi. Per esempio ci sono dei versi che ritroviamo, come quelli straordinari di Baudelaire, che scriveva: oggi lo spazio è uno splendore, a cavallo del vino via, senza briglio o speroni, per un fatato cielo divino. Anche se poi lo stesso poeta metteva in guardia contro la stupidità e il peccato, parole sue, che conducono agli eccessi. Un protagonista del mondo del vino è Piero Antinori, la cui azienda produce alcuni dei vini più celebrati al mondo. Il libro si intitola Il profumo del Chianti, storia di una famiglia di vinattieri, pubblicato da Mondadori, 216 pagine, 18,50 euro. Nella parola vinattiere naturalmente c'è molto understatement, visto che si tratta di una famiglia dell'aristocrazia fiorentina vecchia di 26 generazioni, che mai ha tradito peraltro i propri legami con il vino, come spiegano per esempio queste righe dello stesso Antinori. Certo, fu un'operazione rischiosa, un salto nel buio per gli Antinori. Stirpe che a Firenze era invece da secoli rinomata per la sua cautela nelle scelte, la diplomazia e la capacità tutta italica di districarsi fra potentati e burocrazie. Ad avere la memoria lunga, anzi lunghissima, a casa mia si ragiona in termini di secoli, c'era anche a punzecchiarmi quella spiacevole avventura finanziaria dei primi decenni del Cinquecento, quando Alessandro Di Niccolò Antinori, banchiere, dovette dichiarare bancarotta. Le sue finanze, insieme a quelle di mezza Firenze, si erano prosciugate in enormi prestiti, mai ripagati, alle monarchie europee in guerra fra loro. Particolare inquietante, la più scandalosamente inadempiente, pare sia stata la corona inglese. Da allora avevamo preferito dedicarci sempre di più alle viti, ai commerci e alla politica, e meno alle operazioni bancarie. Nel brano che abbiamo ascoltato si accenna al recupero di una quota dell'azienda che era stata venduta a un grande gruppo straniero, che fu poi recuperato nel 1992 riacquisendo totalmente l'azienda alla famiglia. E nel libro di Antinori troviamo la storia dei suoi vini più famosi, una storia appassionante di vino, ma anche una storia tutta italiana di successo di imprese, in questo caso agricole. Per concludere, alzandoci di gradazione, un libro di Sapo Matteucci, C'era una vodka, un'educazione spirituale da 0 a 60 gradi, pubblicato da La Terza, 268 pagine, 9 euro. Qui non si parla solo di vodka, alla quale allude il titolo, ma di tutto il mondo degli alcolici divisi in categorie. Troviamo infatti gli spiritosi da 0 a 11 gradi, gli spiritati da 16 a 40, gli spiriti magni da 40 a 60, gli spiriti divini da 12 a 16 e poi si conclude con i ferri del mestiere, cioè come farsi un bar. E naturalmente nel libro tante ricette, indicazioni e una guida appunto per attrezzare un bar casalingo che possa funzionare bene. E a questo punto... il confettino. A proposito di mangiare, vi segnalo Stop, chi mangia chi di Sana Kim, illustrato da Anim Kim e pubblicato da Editrice Scienza, 64 pagine, 14,90 euro, tradotto da Vincenza D'Urso. Ginny, che è la protagonista di questo libro, parte in occasione appunto delle vacanze di Natale per andare a trovare il papà lontano, e questo viaggio le fa scoprire fin dall'arrivo sull'aereo tanti nuovi animali e le loro abitudini alimentari. Quindi questo libro è una bella introduzione al la natura e al mondo degli animali. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona settimana e vi do appuntamento a domenica prossima.